Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Apriamo il mese di ottobre anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, il secondo tema di questa settimana. Dopo aver parlato di mutui e di difficoltà da parte dei giovani ad accedere proprio a queste forme di finanziamento, magari per la prima casa, parliamo più in generale degli italiani che temono di diventare poveri. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, le nostre generazioni, almeno le ultime due, la povertà, quella vera, quella diffusa, non l'hanno conosciuta. Bisogna arrivare ai nostri nonni, ai nostri genitori, quindi fino agli anni 50, prima del boom economico, per ricordare un'Italia effettivamente povera. Ma sappiamo che l'impoverimento è sempre più diffuso, soprattutto la questione riguarda chi appunto ha un tenore di vita mediamente alto rispetto al passato, comunque dignitoso, ma un tenore che via via sta scendendo perché scendono proprio gli introiti. Un italiano su tre teme di diventare povero. Sì, Mirko, questo è il dato che è stato pubblicato nel diario della transizione da parte dei Censis, al quale sostanzialmente viene veramente dato questo numero che hai detto tu, un terzo di italiani teme di diventare povero. Certamente è un dato che non tiene conto di chi lo è già, e sappiamo che in Italia ormai i poveri sono oltre 3 milioni e chi rischia di diventarlo, quindi se ne parla di una bella fetta, ma non tiene conto certamente anche di chi è indigente, e veramente si parla di oltre 1,5 milioni di famiglie. Però a parte questi numeri qua, è curioso anche interpretare un po' quelli che sono stati dati diffusi, dove oltre a un terzo degli italiani che teme di diventare povero, solo il 30% sente di avere alle spalle un sistema di welfare che insomma ti può in certo qual modo aiutare in certe situazioni di difficoltà. Però parliamo di un solo 30%, che se lo paragoniamo con i paesi europei, troviamo che invece in Spagna è il 58%, Regno Unito 61%, in Germania 73%, in Francia 74%, quindi vuol dire che anche il sistema con cui comunque oggi c'è un soccorso, un paracadute, che poi da tutta è una cassa di integrazione, è una disoccupazione che per qualche periodo insomma ti può anche venire in soccorso, in Italia siamo proprio il fanalino di coda dell'Europa. Soprattutto manca la fiducia, mentre negli altri paesi che hai citato la fiducia nel sistema complessivo statale, appunto, di sostegno reciproco e di solidarietà è maggiore. Il paradosso è che, tornando alle banche di cui parlavamo un paio di giorni fa, è che nelle banche, oltre ad esserci i soldi che arrivano dalla Banca Centrale Europea, ci sono anche i soldi dei nostri risparmi, che paradossalmente stanno aumentando, perché invece di spendere preferiamo, come si dice in dialetto, fare musigna. Noi sappiamo che come italiani siamo sempre stati delle formichine, e soprattutto se guardiamo sempre questi dati qui scopriamo come il 44% risparmia per far fronte ai rischi sociali, salute, lavoro, e il 36% perché comunque vuole sentirsi sicuro, mentre il 28% per garantirsi una vecchiaia serena. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente la preoccupazione anche di chi lavora certamente non è solo nel breve periodo, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Questo probabilmente perché c'è anche una sfiducia di quelli che sono un po' il sistema di assistenzialismo che oggi gli anziani hanno quando ci si trova veramente ad aver bisogno di rivolgersi alle cure mediche o soprattutto anche a queste case di cura che oggi veramente stanno diventando molto molto costose e rivolte sempre di più a una fetta di popolazione esclusiva. Poi dall'altro canto notiamo come se da una parte diminuiscono gli investimenti, dall'altra per esempio hanno ripreso le persone a sottoscrivere per esempio polizze vita. Questo è un fenomeno che fa capire come le persone cercano di programmare appunto il futuro proprio in previsione di quella che sarà poi la speranza di avere comunque non solo un'integrazione a una futura pensione, ma anche avere la possibilità di poter trovarci una somma accantonata che magari oggi faticano ad avere perché si trova in particolari situazioni. Si è passati, secondo i dati ufficiali, dai 975 miliardi di euro cash in contanti del 2007, quindi prima della crisi, si è passati a 1209 miliardi di marzo di quest'anno, quindi soldi contanti ce ne sono molti di più e sono stati appunto messi via. La crisi ci ha insegnato a risparmiare, mentre prima forse si spendeva anche un po' troppo o un po' inutilmente. Beh, guarda, innanzitutto i cash, soprattutto, che molte persone, come detto, cercano anche di raggranellare un po' di contante, ce l'hanno perché comunque oggi c'è anche un po' più di diffidenza rispetto a certe forme di investimento che sicuramente la storia in questi ultimi decenni ha insegnato a non fidarci troppo. Quando si sottoscrivono obbligazioni, vedi anche le vicende Parmalat, ma vedi anche come certi istituti di credito oggi stanno faticando in Italia, soprattutto i BCC, i crediti cooperativi, che sostanzialmente sono quelli più esposti a questa crisi, certamente inducono anche le persone a gestirsi un po' meglio i soldi. Però è vero che sostanzialmente, se da una parte sono aumentati i contanti in cui le persone vogliono gestire e dall'altra sono aumentate le polizze vita in previsione di un salvadanaio, oggi però di conto si sono completamente azzerati i consumi e dimezzati gli investimenti immobiliari, quindi abbiamo un fenomeno che messo su un piatto della bilancia vediamo che alla fine da una parte è diminuito, da quell'altra è aumentato, ma sostanzialmente le persone pensano a salvaguardare un po' se stesse senza preoccuparsi più come una volta a fare certe forme di investimento che per tanti motivi non vogliono più fare. La storia recente, appunto, la crisi dovuta proprio ai mutui ci ha insegnato a spendere i soldi solo quando effettivamente li abbiamo e non a spendere, diciamo, a debito, andando a chiedere prestiti alle banche. Sta cambiando il nostro modo di vivere, anche di risparmiare e di spendere, ma probabilmente siamo ancora in fase transitoria. Su questi dati noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, ancora con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.